Benvenuti a Radio Warpa. E siamo in onda così al brucio. Tra l'altro con un leggero ritardo. Questa è Radio Warpa. Sono le 15.55 del 21 giugno 2025 e siamo in onda su Radio Antidoto per questa kermesse, questo festival dedicato al gioco indipendente che si chiama Radio Warpa o Radio Warpa, non mi è ben chiaro ancora la pronuncia. Warpa. Grazie di Zona Warpa, chiedo scusa se inizierò a fare confusione tra Radio Zona naturalmente. E vi presento i miei primi due ospiti che con molto piacere accolgo. Sono Matteo Lupetti di Zona Warpa e Matteo Bini, che è uno degli speaker che conferirà domani pomeriggio alle 15, se no alle 17. No, mi sembra più verso le 15. Le 15, alle 15, perfetto. Salve, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, allora secondo me le casse danno fastidio pure a noi in tutto questo, quindi le abbasso ancora un po'. Allora, sono contento di avervi voi per primi perché, come avrò detto a Matteo almeno 70 volte, mi piaceva moltissimo l'idea di poter parlare innanzitutto di Zona Warpa, nel senso ci sono un paio di persone che volevo intercettare, quindi magari riuscire a intercettarle. Ho già fatto delle interviste in questo che è il corridoio dei developer proprio al nostro fianco, noi ci troviamo nella sala mensa che poi sarà dedicata ai giochi di ruolo, e mentre al piano terra abbiamo la sala delle conferenze a fianco all'ingresso, che è alla sinistra dei cancelli del Gabrio, così diamo anche delle informazioni pratiche per se mai qualcuno ci ascolterà in diretta. E allora, Matteo Lupetti, comincerei da te e vi chiamerò anche per cognome così vi distinguete, se no si crea un po' di affollamento, e comincerei da te chiedendoti la cosa più banale, cioè cos'è Zona Warpa e come nasce, nel senso, da dove nasce l'idea di Zona Warpa? L'idea di Zona Warpa nasce, tanto il nome della Warp Zone, perché il Super Mario Bros. 1, quello per NES, ci sono queste zone dove si può teletrasportare in altri mondi. Questa idea dello Warp, che in realtà è un concetto difficile da tradurre in italiano, perché lo Warp era una deformazione dello spazio. Quindi la nostra idea era: deformiamo lo spazio. In che senso deformiamo lo spazio? Cioè creiamo delle zone di libertà, di indipendenza, di disordine anche, all'interno di uno spazio che non è semplicemente lo spazio geografico, però anche lo spazio geografico, perché noi oggi siamo qua al CSOA Gabrio a Torino, che è un luogo occupato, e Zona Warpa si fa in varie città, però sempre soltanto in luoghi indipendenti, luoghi occupati, in luoghi gestiti collettivamente, quindi sono luoghi che già deformano lo spazio, che è lo spazio del capitale, della produzione e consumo. E noi ci inseriamo in questi spazi e cerchiamo di deformare un altro spazio, che è quello dell'industria videoludica. Quindi queste sono delle zone dove si cerca di fare casino con il videogioco, però usando il videogioco. Come si cerca di fare casino usando il videogioco? Ospitando sviluppatori indipendenti, prima di tutto, quindi ci sono persone che vengono qui e portano i loro videogiochi, e cerchiamo di dare la priorità a produzioni di dimensione la più piccola possibile, e cerchiamo di dare spazio a interventi che parlano di cose strane, che magari raccontate da persone che normalmente non si sentono in questi eventi, e cerchiamo di fare tutto al di fuori appunto di quella che invece è la logica del grande festival del videogioco. Quindi non c'è la parte davvero di fiera mercato, non c'è la parte di vendita a 150 euro di retro game. A volte abbiamo portato dei retro game da vendere ed era un'offerta libera, questa è la mentalità. L'entrata è libera, c'è un'offerta che chiediamo, però chi vuole venire viene, chi vuole esporre espone gratis, cioè uno spazio che sia fuori rispetto a questo. Quindi noi cercavamo questo, uno spazio nuovo al di fuori del grande festival dei videogiochi, che ci sono, anche molto importanti, però in realtà sono delle grosse fiere di mercato su delle logiche che non erano quelle che noi volevamo promuovere. Mi avevi detto che non eri uno che sapeva parlare, invece hai fatto una presentazione già eccellente, quindi ribadisco la mia contentezza di averti ai microfoni. Una cosa che ti volevo chiedere è: hai parlato alla prima persona plurale, no noi, chi siete? Cioè, chi, da cosa, da chi è composto, come dire, il nucleo organizzativo di Zona Warp? Allora, noi è un collettivo, sono varie persone. Il nucleo base nasce da Rico di Walkie Talkie e Fabio Kenobit, che hanno avuto un po' l'idea. Insieme a loro, diciamo, ancora nel nucleo principale, quelli che, le prime persone che hanno discusso c'erano state Claudia e Matteo di You Are Muesli, perché non c'erano abbastanza Matteo se no in questo incontro. You Are Muesli sono ora uno studio milanese, ma loro sono nati come un duo di persone che fanno videogiochi che parlano di storia e di cultura italiana principalmente. E questo è stato il nucleo principale. Poi si sono aggiunte varie persone, si è aggiunto Doug, che è la persona che ci cura la parte di comunicazione, ci ha aggiunto Nico di Non Materia, che ci dà una mano, e lui fa anche tutto un lavoro di live coding, cioè fa musica scrivendo codice in tempo reale. E questo è come si è espanso un po' il nostro collettivo nel tempo. Che poi l'impressione è che in qualche maniera vi siete incontrati, cioè mi parli di un gruppo che appunto è cresciuto ed è in crescita, e quasi sembra che sia un gruppo di persone che aveva bisogno di incontrarsi, nel senso avete trovato i componenti, perché evidentemente chi ha avuto l'idea iniziale è riuscito a mettere il dito su un punto, che aveva delle persone che stavano cercando soltanto altre persone per poterlo raccontare col vostro taglio. Sì, sicuramente sì, nel senso, cioè, tutte le persone sentivano necessità, magari non tutte nello stesso modo, come tutti i collettivi ci sono varie visioni diverse anche di come fare. Il festival è in continua evoluzione, questa è la terza edizione, la prima edizione era diversa dalla seconda, la seconda edizione è diversa dalla terza, la quarta edizione sarà diversa da questa, però la necessità era una necessità che noi sentivamo. Tutte le persone volevano fare qualcosa di questo genere, creare un festival culturale sul videogioco, dove il videogioco fosse luogo di aggregazione, luogo di produzione culturale, luogo di discussione, appunto, e non comprare baratte e vendi. Certo. Matteo Bini, avvicinati un mezzo passo, così sono sicuro che l'audio viene bene. Allora, tu per esempio non sei parte, come dire, strettamente, formalmente del collettivo Warpa, giusto? Esatto. No, esatto. Sono un amico, diciamo. Però nel senso sei un appassionato, nel senso mi dicevi che comunque hai partecipato a tutte le edizioni possibile. Forse ne ho mancate un paio, forse non sono venuto a Bologna. Sì, tipo, ha mancato delle singole date. Ah, ok. Non solo ha partecipato a tutte le edizioni, però il dubbio è, ha partecipato a tutte le date? No, forse no. È un frequent flyer, praticamente. A un certo punto vincerai un gioco, penso, qualcosa del genere. Una spilla. E tu, appunto, Matteo Lupetti ci ha raccontato un pochettino l'esperienza di Zona Warpa, e anche, diciamo così, la parte relativa al bisogno. Tu sei, diciamo così, un partecipante di Zona Warpa, un appassionato di Zona Warpa. Cosa ne pensi di quello che ha appena detto Matteo? Allora, Matteo ha detto un sacco di cose. Proprio mi attacco al bisogno per dire che anch'io avevo bisogno di un evento così. Io circa 10 anni fa bazzicavo amatorialmente, pieno di sogni, il mondo del giornalismo videoludico. All'epoca facevo parte di un canale comunitario su YouTube in cui era l'epoca di Me la godo, era l'epoca dei primi gameplay di COD. E noi invece ci ponevamo in, diciamo, non tanto in antitesi, ma in alternativa, per fornire una sorta di redazione giornalistica fatta però da chi videogiochi ci giocava e ci aveva questa passione, e non tanto dalle riviste che già all'epoca avevano forti problemi, diciamo, di conflitto di interessi, in cui se l'azienda che fa il giocone è quella che ti mantiene, forse del giocone parlerai in un certo modo. E quindi in realtà ho frequentato sia Lucca Comics prima come appassionato, certo, poi un pochino con qualche piccola intervista, sono andato alla Games Week con grande curiosità, e poi addirittura partecipai ad un evento stampa di COD in cui intervistammo uno degli sviluppatori. Ma poi con gli anni, sarà il cinismo, sarà la voglia di, non lo so, di un mondo diverso, ti dici che questi eventi forse non sono così belli, non mi diverto più, ma non mi piacciono più i videogiochi, non mi piacciono più queste manifestazioni. A parte che Matteo Lupetti ha parlato di casino, ma a Zona Warpa non c'è casino, c'è musica, e al Games Week e a Lucca che c'è casino, nel senso che a questi eventi così grandi ci sono anche a volte ospiti interessanti, ci sono cose di rilievo, però c'è anche tanto altro, c'è tanta confusione, e il bello degli eventi dal vivo è che puoi incontrare delle persone, ci puoi parlare. E diventa sempre più difficile nelle grandi manifestazioni, certo, che uno devono vendere e due devono vendere a tantissime persone, sì, quindi devono anche esibire molto, c'è molto meno tempo. E quindi io sono venuto a conoscenza di Zona Warpa proprio perché avevo il bisogno di una manifestazione diversa. Tu come ne sei venuto a conoscenza? In realtà giusta domanda che è interessante, io l'ho già dimenticato come ho fatto, cioè ho visto il vostro sito per puro caso e c'era la call se avete progetti e vi ho scritto, però non so come ci sono finito. Io conoscevo Da prima Fabio Kenobit, okay, perché avevamo fatto insieme una serata dedicata ai 30 anni di un videogioco che è uno dei miei preferiti, è Zack McCracken and the Iron Mind Benders. Attenzione. E lui presentava la serata, io avevo fatto un video in onore di questo gioco. Scusami, però permetti, sì, perché io volevo entrare anche un po' nel merito del fatto, perché noi stiamo parlando di una cosa in maniera... Io forse sto un po' deviando l'argomento. No, no, è per nulla in realtà, perché io volevo entrare proprio a questo punto qua, cioè voi siete gamer, giusto? Cioè, nel senso, a siete questo persone... punto non lo so più, no? Perché i giochi a cui gioco forse non... Però siete persone che evidentemente siete cresciute con i videogiochi. Io devo farmi una domanda un po' personale, vi chiedo scusa, ma come dire, esco allo scoperto. Io ho 42 anni, così l'ho detta prima io. Voi quanti anni avete? 37. 30. Quindi, se, vabbè, a 30 anni ero disilluso pure io, poi ti passa, non ti preoccupare, poi ti torna l'entusiasmo. Però, nel senso, per dire, io posso dirvi, a 10 anni giocavo a Monkey Island 1, quindi nel senso sono un anziano del gaming e l'ho visto evolvere, ed è molto affascinante il fatto che da quell'esperienza che era da soli col PC, il desktop e basta, perché all'epoca c'era quello e la Nintendo, a poi giocare sul divano, il couch gaming e tutto quanto, è stato incredibile, anche un po' vertiginoso vedere come evolve il videogioco. Voi siete un po' la versione di me stesso rispetto alla musica, cioè un giorno io mi sono scocciato della musica per gli stessi esatti motivi, cioè quasi le stesse parole che hai usato tu, e capisco perfettamente che cosa intendi. Quindi la cosa che a me sollecita molto è: voi avete giocato ai videogame e avete visto qualcosa, che è qualcosa che sotto traccia neanche tanto a Zona Warpa viene detto, cioè qualcosa di politico, qualcosa anche di, come dire, di predatorio, cioè di sfruttamento. Cioè quando dici che i giochi non ti divertono più, perché? Allora, ben inteso che ci sono giochi meravigliosi, certo, che escono tuttora. Non voglio fare il nostalgico e dice ai miei tempi. No, però perché cioè, sei troppo giovane, esatto, non te lo sei guadagnato questo. Sarebbe ridicolo. Però sarebbe anche chiudere gli occhi su alcuni fatti, nel senso che non è che prima i videogiochi fossero più belli, è che fondamentalmente gli editori pensavano di riuscire meno a farla franca, nel senso che quando internet non era diffuso, se il gioco, per dire, usciva, che ne so, pieno di problemi, i recensori giustamente lo stroncavano e te il gioco lo vendevi a fatica. Oggi questa cosa è un pochino cambiata. Anche perché pecciarlo non era facile come adesso. Esatto. E che quindi che cosa succede? Che il rapporto tra chi gioca e chi produce giochi ha una leva maggiore, secondo me, a sfavore di chi gioca. Non che non ci siano realtà meravigliose che provano empatia verso i giocatori, però come in ogni ambito del capitalismo, dove tu vedi un margine di guadagno, non guardi in faccia nessuno e cerchi di prendertelo. E questo poi sia va a impoverire l'aspetto culturale, perché i giochi di nicchia tendono di più a sparire, le persone si sentono anche, come dire, in ansia di dover stare al passo coi tempi di quella che è la moda. Ma se a te piacevano i giochi isometrici, per dire, come Stevia, no? Bellissimi, sì, giochi isometrici. Eh no, però sai, adesso va di moda la grafica 3D. Sì, ma è un discorso estetico, non sto dicendo, cioè, parlo di arte, nessuno ti direbbe, però dai, la Mona Lisa fa cagare rispetto a una fotografia, cioè sono cose diverse, non si può fare questo paragone. Se a te piacciono i giochi isometrici, non sei vecchio, hai un certo tipo di gusto. E comunque, tornando al discorso, i videogiochi non sono peggiorati, quello che è successo è che l'ambiente dei videogiochi è sempre stato ricco di situazioni di sfruttamento e di persone che in realtà da un punto di vista politico e culturale erano povere. Prendiamo ad esempio uno dei mostri sacri dei videogiochi come Doom, uno dei miei videogiochi preferiti. Se si va a vedere la storia degli sviluppatori e delle persone che ci hanno lavorato, non è che fossero dei santi, non è che avessero sta grandissima empatia anche a livello umano. Solo che erano in un momento in cui sono riusciti a fare quel videogioco e per una serie di scelte sono state fatte dopo, quel videogioco è tornato più indietro alla comunità dei giocatori che piuttosto a loro. Oggi invece è molto più facile che le aziende abbiano un atteggiamento, come hai segnalato, predatorio nei confronti del mercato, perché hanno visto che quel margine se lo possono prendere, mentre prima magari si pensava che non fosse possibile. Per me questi ragionamenti sono tutti fantastici, nel senso che, come ho detto, sono un antico gamer e quindi non sono diventato vecchio prima di cominciare a parlare dei giochi in questa maniera. Vabbè, adesso non sto a tediarvi con i miei ricordi di quando avevo la tua età, che mette un po' tristezza, però il discorso è l'opportunità, come dire, di accedere anche a delle informazioni, perché per esempio quando io giocavo a Doom e poi avevo gli incubi di notte, non sapevo la storia degli sviluppatori, mentre internet ha cambiato tantissimo le regole del gioco sui giochi, nel senso che se sei informato ti possono, come dire, vendere una cosa che poi aggiustare in corsa. Forse l'esempio più clamoroso è stato No Man's Sky, che io ho atteso per anni e anni, è uscito, l'hanno demolito, 5 anni dopo, 6 anni dopo hanno fatto una patch incredibile, per cui adesso è di nuovo un gioco di successo. Però è stata una storia molto affascinante quella, cioè, perché ha avuto una serie di passaggi veramente strani che probabilmente una volta non sarebbero potuto accadere. Ti usciva No Man's Sky 1, faceva schifo, se riuscivi a sopravvivere economicamente magari facevi il 2, e il 2 sarebbe stato la bomba che adesso No Man's Sky viene considerata da tutti. Però il discorso è la possibilità di poter ragionare su queste cose e il fatto che ci possa essere qualcuno che le contesta, perché Zona Warp alla fine è anche una forma di contestazione, no? Correggimi se sbaglio, Matteo. Sì. Magari lo porrei in maniera diversa rispetto a come l'ha posta Matteo, scusate. Mi chiamate Matteo, vi dovete chiamare per nome. Cioè, io, quello che giocavo quando ero una persona piccola, giocavo come si... Cosa giocavi? Come persone piccole, giocavo al Super Nintendo, le avventure grafiche, i giochi tuoi indimenticabilissimi. Dell'infanzia, Terranigma, che è questo gioco di Enix per SNES. Guardo la giuria. È un gioco di ruolo d'azione non proprio famosissimo per SNES, che è stato poi il gioco della mia infanzia, ma anche alcuni sparatutto e così via, alcune avventure grafiche. Ora è uscito il remake di Amazon e continua a essere una cosa interessantissima da rigiocare anche oggi, ed è stata per anni la mia avventura grafica preferita alla fine di Bernardo Cal. Però io scrivo di videogiochi, il mio lavoro è questo sostanzialmente, io faccio critica, e io ho iniziato a scrivere di videogiochi in un periodo forse fortunato, perché era il 2012, 2013, 2014, cioè era il periodo di un certo tipo di quella cosiddetta rivoluzione indie, cioè c'era comunque l'idea all'epoca che i videogiochi si stessero espandendo, che si potessero fare cose nuove, che tutte queste cose nuove fossero videogiochi, cioè che l'industria dei videogiochi, un certo tipo di mondo dei videogiochi, era pronto ad allargarsi, ad accogliere tutta una serie di espressioni innovative che andavano da quello di cui all'epoca mi specializzavo, che erano le avventure testuali realizzate dalla comunità trans, che è stata più o meno la mia specializzazione per anni, fino a magari tutto quel tipo di lavori che Jan Bogost chiamò il proceduralismo, cioè tutta questa serie di piccole opere che portavano avanti dei discorsi attraverso le loro meccaniche di gioco, tutta una serie di cose interessanti, che però questa cosa non è successa. Cioè, la mia delusione rispetto, cioè, dice, qual è il mio problema con la industria dei videogiochi attuale? Che io ho vissuto in un periodo in cui si sperava che il videogioco facesse, prendesse dei percorsi che non sono stati presi davvero, nel senso che oggi il videogioco, in realtà probabilmente anche all'epoca ero una persona molto illusa io, però all'epoca c'è avuto questa idea non si è mai avverata, perché l'industria di videogioco indie è un'industria di start-up pari, quindi queste mantenuta da questo sogno di tutti possono fare l'imprenditore, sì, della lotteria alla fine. Sì, il discorso è che quello che il mondo, l'evoluzione indie è stata la versione videoludica di tutti quei processi in cui abbiamo detto tu puoi diventare l'imprenditore di te stesso, no? È stato come sì, YouTube, come sì, quindi con Steam al posto di YouTube, però è stata questa, quindi abbiamo creato una generazione di startup pari più che, capito, di persone che avevano da fare dei ragionamenti artistici e anche che dovevano in qualche maniera engage with, non niente in italiano, però di trattare il dibattito culturale attuale, che è una cosa che mi fa molta rabbia, perché tutti i giochi che gioco oggi sono totalmente avulsi dal contesto storico culturale, cioè ne giocherò due all'anno videogiochi che sembrano fatti da persone che sanno di cosa si sta parlando nel mondo della cultura, e quindi la mia delusione più che altro è questa, cioè il fatto che il videogioco oggi, tuttora, sia difficilmente una voce attiva nel dibattito culturale, semplicemente perché chi fa videogiochi non partecipa al dibattito culturale ben spesso. Ecco, questa è che è comunque una partecipazione. Sì, che comunque, cioè, nel senso, vuol dire che da un punto di vista politico hai. Sì, tu stai dicendo una cosa, sì, perché non stai dicendo niente, però così stai chiaramente dicendo una cosa. Indica sicuramente un certo disinteresse, diciamo, sì, a questo tipo di cose. Però il mio problema è più che altro questo, quindi non è tanto il discorso questo, per me non è tanto la differenza rispetto a quando ero una persona piccola. Quando ero una persona piccola l'industria dei giochi faceva schifo, c'erano le macchinette ciuccia soldi nelle tipo Metal Slug che ti facevano morire e tu dovevi aggiungere soldi per resuscitare. Però c'era la pirateria, quella vera. No, c'era la pirateria. Guarda che la pirateria ha mantenuto un sacco di giochi. Non volevo. Io ho giocato a Zack McCracken grazie alla pirateria. Non volevo assolutamente criticare la pirateria. Fino al 2000, lo voglio dire quanto, un gioco non l'ho pagato quasi mai. Tranne quelli che mi facevo regolare, che installavo il computer e non funzionava. No, mi arrabbiavo. Ma non volevo assolutamente criticare la pirateria. Però il fatto è che quando avevo 10 anni, l'industria dei videogiochi era un posto terribile, sì, lo certo. Stesso, cioè già Nintendo, che questa azienda super malvagia con controllo assoluto sulle sue macchine, che per fare le mie macchine sono quello che voglio io, sì, no, cioè, era un mondo di Evil Corps già, quindi non credo che fosse meglio all'epoca in nessuna maniera. Quello che credo è che purtroppo io ho iniziato a lavorare effettivamente in questo mondo in un'epoca in cui invece speravo che le cose sarebbero state diverse, e queste cose non sono state diverse, questo lo posso dire. Ok, nel frattempo lei è mia moglie, nel senso, non vi preoccupate che è venuta a darmi una forte perché avevo dimenticato un dettaglio abbastanza importante per capire dove si ascolta la radio. Allora ragazzi, se voi siete d'accordo mando una canzone così noi rifiatiamo, perché della carne al fuoco è molto ricca, e torniamo in onda tra 2-3 minuti, metto un pezzo da 6 minuti, lo sfumerò sicuramente. Via. Thank you. avanti col mio microfono. Basso il volume della traccia, così usciamo e torniamo in onda. Ci siete. Siamo in onda. E delle persone chiedono delle informazioni a mia moglie, ma che non sa giustamente nulla. Allora, Matteo Bini, ma anche Matteo Lupetti. Però parto da te perché hai lanciato. Io molti anni fa ho iniziato ad arrabbiarmi con i videogame, perché i videogame sono diventate simulazioni di lavoro vero. Il primo videogame che mi ha fatto incazzare male è stato Minecraft, che io trovo il più grande strumento di sottomissione della popolazione umana mai creato, perché piace molto ai bambini, ma è un simulatore di minatore. Tu passi la giornata a spaccare le pietre, capito? Come gli italiani in Belgio negli anni 50. E quella roba lì, poi adesso Minecraft è una cavolata, però ci sono tanti giochi che replicano l'attività lavorativa, per cui parlavamo fuori onda di Steam, no? Li compri ma non ho il tempo di giocare, poi magari ci gioco e scopro che mi chiedono lo stesso atteggiamento mentale di quando lavoro. Quindi dov'è finito il gioco? Cioè io voglio giocare, fare una cosa stupida, come dire, in superficie, magari niente affatto stupida in profondità, però non deve seguire la meccanica che io timbro un cartellino virtuale o dei task che devo assolutamente risolvere in quel dato tempo per guadagnare dei soldi, perché magari quel gioco ha uno store interno e quindi se non spendo quei soldi lì ci sarà un ragazzino che ha un pocket money che gli danno i genitori, che compra, che ne so, il boost per battermi ogni cavolo di volta. Tipo, sto giocando ai football. I football perderò sempre, tutta la vita, perché i football, i giocatori forti, li paghi con le monete. Io non glieli do i soldi per le monete. Non esiste. Ho capito. No, è sicuramente un problema. Devo dire che la simulazione del lavoro nei videogiochi mi tocca un pochino meno, perché per carattere io tendo a prendere poco sul serio, quindi non sono mai riuscito a prendere il mio lavoro sul serio. Sarà che originariamente partito dal lavoro, io, a me il lavoro fa schifo, non è che mi fa schifo, però nel senso non lo prendo troppo sul serio, anche perché in realtà di solito se vuoi lavorare bene, se riesci ad essere un pochino distaccato è meglio. Perché se no poi, a parte stai male fisicamente, a livello di salute non è bellissimo, ma poi anche proprio se ti interessa semplicemente, no, che sia un lavoro, il tuo lavoro, quello che ti mantiene, o che tu stia facendo un lavoro a casa, sistemando una cosa a casa, scrivi un racconto, quello che è, se sei ossessionato da quello che fai non riesci ad avere la giusta prospettiva per, anche proprio per essere felice nel farlo, per godertelo, non è assolutamente facile. Però non so dire se davvero questa cosa mi tocchi. Devo dire che io a Minecraft ci ho giocato pochissimo, quasi punto. Ho giocato molto di più a Terraria mi piace, sì, di più. Ci ho provato, non l'ho capito del tutto, ma ero già molto vecchio, quindi andavo. Non lo so, Terraria mi piaceva. Questa cosa che devi costruirti le cose, cioè io voglio costruirmela nella vita reale, la casa figa, ma è diverso, è diverso comunque, perché io nella vita reale non la voglio costruire la casa figa, a me va bene la casa dove sto, quindi non è più un discorso anche di, non lo so, non, ci sono cose che mi rilassano magari nella vita reale, sono assolutamente noiose, tipo archiviare videogiochi. Eh beh, mi rilassa, tipo, ah, questo è un videogioco, lo metto sull'hard disk, so che ne ho una copia e mi rilassa. È una malattia mentale probabilmente, però quindi magari potrebbe anche essere semplicemente che abbiamo bisogno di rilassarci facendo una cosa che parla ad una parte del nostro carattere. Non so se davvero un gioco come Minecraft voglia proprio farti diventare un minatore, voglia. Non lo so, io la vivo malissimo. Cioè, l'idea che devi accendi un gioco e spacchi le pietre, dici vabbè, però. Diciamo, ecco, io una cosa che capisco meno, e ho paura a questo punto di dire questa cosa, sono i giochi un po' troppo realistici. Cioè, tipo, ma giocare a calcio, ma se mi interessava giocare a calcio davvero fuori, però mi dicono vabbè, ma non è mica la stessa cosa, scusa. Effettivamente è vero, perché io non posso giocare una partita 11 contro 11 e. Poi devo di arrivare al 90esimo. Ho finito la mia conoscenza calcistica, però nel senso. Però ho sempre detto, vuoi mettere, che ne so, poter essere James Bond in un videogioco? Nella vita reale è più difficile, voilà, capito? Infatti, per esempio, una cosa che a me anche ha turbato da appassionato di giochi sportivi e nello fattispecie nella pallacanestro, nacque la serie degli NBA 2K che finalmente davano alla pallacanestro una dignità videoludica. Fino allora si erano fatti tentativi, alcuni divertenti, altri che dopo un po' ci hanno preso gusto alla simulazione. Quindi cosa succede? Che se tu installi adesso dal 2020 più o meno a oggi, se tu ti installi un NBA 2K, prima di giocare un NBA, una partita NBA completa, passano almeno 3 stagioni. Perché prima ti devi allenare, l'allenatore deve conquistare la tua fiducia, devi trovare il tuo posto, devi comunque anche pomparti. E quindi dici, quello è un cazzo di lavoro, cioè io non voglio lavorare, non mi piace, voglio giocare l'NBA, capito? Le schiacciate tamarre, fare finta di essere fortissimo, perché sono alto 1,70 m, non ma però mai queste sono anche modi di progettazione, perché che ne so, una cosa che a me piaceva tanto, che un pochino si è persa, perché adesso si può fare molto di più a livello interattivo e cinematografico, è l'immediatezza. Te metti il primo Super Mario, bam, ci giochi, inizi a giocare. Ma anche se vogliamo le avventure grafiche e quelle storiche, premi ESC, sei nel gioco, è saltata la sequenza di intermezzo. E ci sono giochi in cui purtroppo non si possono saltare le questa cosa qui, il mio primo trauma fu attorno ai 20 anni, uscì Final Fantasy 10 se non mi sbaglio, 11, e le cinematiche erano così lunghe che io l'11 era online, giusto, l'11 era già dal Massive, e niente, non ce l'ho fatta, cioè l'ho viste le prime due, sono passato 10 minuti a guardare un bellissimo film, perché uno dice le cinematiche sono bellissime, incredibile la tecnologia, ed è tra le altre cose forse una delle robe che connette un po' quella che è la tua esperienza, ovvero tu hai iniziato a scrivere di videogame, io per esempio ero neolaureato ed ero curioso di diventare accademico nei videogame, perché tra il 2003 e il 2004 è successo qualcosa per cui, che in realtà è Warcraft per la verità, per cui i videogame sono diventati una cosa che non erano più una roba di nicchia tra adolescenti principalmente maschi che si incontravano a casa un po' su internet, ma non era ancora così diffusissimo, e giocavano assieme, una roba che ti faceva diventare James Bond, ammazzare gli zombie e ci passavi delle grandissime ore. Beh, è diventato un'industria paracinematografica, nel senso che poi mi ricordo che quei pochi titoli di giornali italiani erano sconvolti dal fatto che l'industria videoludica superò l'industria del cinema come incassi. Poi adesso non so qual è la situazione attuale, però tuttora mi sa. Sì, su questo sono sempre un po' polemico, perché dipende un po' come fai i conti. Okay. Cioè, perché l'industria videoludica fa questo giochino, dice: ah, noi siamo più grossi dell'industria cinematografica e dell'industria discografica sommate insieme. Però l'industria videoludica conta tutto, ogni possibile spesa al suo interno. L'industria cinematografica sono solo l'incasso al botteghino. Che questo quindi, è interessante. Quindi è facile barare. Se bari. Però vedi, quello che mi affascina è che tu sei testimone diretto di una trasformazione. Cioè, non c'era un'industria videoludica che se la giocava, che faceva la furba così prima. Cioè, c'erano dei grandi blocchi, c'era Sony, c'era Nintendo. Basta. Sì, allora oddio, forse è più un'evoluzione. Vuoi fare due discorsi separati. Intanto il discorso sul videogioco e il lavoro, che secondo me è interessante, un secondo, perché già Adorno diceva che nel capitalismo nelle società a capitalismo avanzato il tempo libero è funzionale al lavoro, cioè, in generale. Quindi era già un'invenzione del lavoro, quindi il tempo libero stesso. Nel capitalismo, lo sport, perché non esiste lo sport fuori dal capitalismo, cioè quello che noi intendiamo come sport, è lavoro. E funziona come lavoro. È una performance che viene quantificata, no? Calcolata, e tu devi raggiungere dei risultati. Quindi non esiste il videogioco fuori da questa cosa, perché non esiste il tempo libero fuori da attività lavorativa, sostanzialmente. E per quanto ci sono dei tentativi di portare fuori il videogioco da il mondo del lavoro, quindi dalle strutture del capitalismo, il videogioco è assolutamente una forma, no, che si sviluppa all'interno del capitalismo, quindi è difficile trovare, però in generale, cioè il videogioco funziona come lo sport, che funziona come la scuola, no, dove tu prendi e ti danno i voti, ti danno i punteggi, no? Certo. Qual è la differenza? È tutto molto simile in realtà. E poi c'è il discorso di come è cambiata l'industria videoludica. Dice, che è cambiata, secondo me, più che nel 2003-2004, il grosso momento di rottura è stato la crisi economica del 2008. Ok. Che quando effettivamente, cosa è successo lì? Che c'era già lo smartphone come dispositivo avanzato, e la crisi economica sostanzialmente distrusse il mercato del videogioco premium e iniziò a diffondersi il videogioco gratuito, quello free to play, freemium, ah, certo, vogliamo chiamarlo. E lì c'è stata anche la crescita. Quello è veramente il male, quello, sopra il male c'è malissimo. No, però o forse sotto, perché poi è una roba marcia quella roba lì. L'industria videoludica è questa. Cioè, tutti i soldi che noi pensiamo esistono nel mondo del videogioco, e poi ripeto, che secondo me andrebbero comparati diversamente rispetto alle altre industrie di intrattenimento, ma tutti i soldi che noi diciamo che ci sono vengono da quel videogioco, cioè non vengono da nessun altro videogioco. Cioè, i grandi successi The Last of Us, God of War, Final Fantasy sono delle voci, allora, trascurabili no, ma di minoranza rispetto ai ciucciasoldi su cellulare. Questo è molto interessante. O i ciucciasoldi su computer. Questo, cioè, è molto interessante. Che è fatta di i soldi vengono tutti da lì. E questo vuol dire anche un'altra cosa, che l'influenza culturale, il videogioco in questo momento ce l'ha attraverso quei giochi lì. Ci sono 3 miliardi di persone che giocano a videogiochi al mondo. E tipo tanti, Candy Crush. Ma sono Candy Crush. Candy Crush ha avuto 3 miliardi di download. 3 miliardi di download. Cioè, vuol dire che sostanzialmente, la facciamo finta che non siano 3 miliardi di persone, che non saranno mai, ma 1,5 miliardi di persone hanno giocato a Candy Crush in vita loro. Io ci ho giocato. Però nel senso, poi noi chiacchieriamo di videogiochi che vengono giocati da 20 milioni di persone. 20 milioni di persone rispetto a 1,5 miliardi è una cifra trascurabile. Certo. Cioè, i grandi videogiochi, anche i mainstream, non contano nulla a livello del successo che hanno rispetto a un Candy Crush. I numeri veri fanno questi videogiochi. Quindi quando noi parliamo delle persone di videogiochi, loro non hanno la stessa esperienza di videogiochi che abbiamo noi, perché per loro il videogioco è quello. Il videogioco di maggior successo al mondo sarà il solitario di Windows. Sì. È quella la vera influenza culturale del videogioco. Oddio, c'è da dire anche una cosa, nel senso che sicuramente questo discorso è, cioè, è inconfutabile, però forse uno può fare un'analisi parallela, cioè come tu distingui tra cinema e mezzo audiovisivo in generale, forse il videogioco può avere più binari, nel senso che pensare che esiste un videogioco come Red Dead Redemption 2 il cui budget è paragonabile a un film come Mission Impossible, per dire, o l'ultimo film di James Bond, giusto per rimanere nei miei lidi domestici, e può fare impressione. Soprattutto lo qua fa, si parla lo di fa. 400 milioni in media come costo di queste produzioni. Cioè, quindi, ormai stiamo arrivando anche più in alto. Sì, sì, va bene, c'è stata un po' di inflazione, ma 400 milioni inizia a essere una somma importante, certo, ecco. Certo. Un singolo, un videogioco, 400 milioni difficilmente se lo può fare. Però non è quello che fa cultura. No. Cioè, dalle persone, non è quel videogioco quello che sarà giocato da tutte le persone. Quindi, e che cultura fa un gioco come, vabbè, adesso ti dico Candy Crush, ma che ne so, ce ne sono un quantitativo imbarazzante di questi ciuccia soldi, mi piace molto, sì, acchiappa benissimo, funziona perfettamente. No, appunto, è un tipo di cultura perfettamente in continuità con un certo ciclo di produzione del capitale, perché questo lo dice bene Baun in Capitalismo e Candy Crush. Cioè, che esiste anche nel caso non si fosse capire, è un titolo esplicito, esiste anche in italiano, questo è il titolo di edizione italiana pubblicato da Not, che dice: questi giochi hanno uno scopo, hanno un ruolo nella nostra cultura, che è farci pensare che il nostro lavoro conti qualcosa. Per cui dice, noi facciamo dei lavori inutili, ma diventano significativi quando noi pensiamo di riuscire a rubare tempo a questi lavori inutili facendo una cosa che ci dicono che è inutile. Quindi dicono, non stai lavorando, stai giochicchiando a Candy Crush, non si fa, perché il tuo lavoro è la cosa importante, e questo nasconde il fatto che il tuo lavoro non è importante, il lavoro uno shit job. È talmente poco importante che puoi permetterti di giocare a Candy Crush senza che ti succeda nulla di veramente grave. Il punto è che però serve, dipende dalle ore che ci giochi, a farti sentire intrattenuto nel tempo, no? A farti sentire che stai perdendo tempo, a farti sentire che quindi il tuo tempo in qualche, che non facendo quello il tuo tempo contava qualcosa, come se lo riacquistassi, perché esatto, è un atto subversivo. In realtà, rimanendo all'interno di tutta una serie di cicli, quindi sostanzialmente ti fanno riacquisire controllo non facendoti riacquisire, cioè tu rimani sempre all'interno del sistema. È come quei sogni, quelle storie scritte male dove il personaggio si sveglia e dice era tutto un sogno, ma poi vede che c'è il graffio del vampiro, tipo no no non era un sogno, cioè così, capito? Dice ah sono libero del capitale, e poi tipo no non è vero, non sto è ancora vero. Giocando al capitale, cioè e questo è il loro ruolo culturale, quindi hanno un ruolo culturale queste produzioni, che io trovo preoccupante. Però è secondo me è assolutamente questo il loro scopo, cioè hanno una funzione ben specifica, non hanno questo successo per caso. Allora io volevo tornare su Zona Warp prendendo l'esempio di questo discorso che tu mi hai fatto. A me interessa molto il tema del gioco, è una cosa che secondo me è una cosa che viviamo tutti naturalmente, è un'esperienza umana, è anche un'esperienza molto sofisticata, nel senso che è un'attività talmente banale che poi alla fine risponde a delle regole che sono anche difficili da tracciare, cioè il gioco è una cosa seria ma non lo è, ha delle regole ma non le ha, è uno strumento educativo ma non è solo quello, è divertimento però è anche concentrazione, è performance però è anche libertà, quindi è un oggetto molto sfuggente. Quando ho cercato di capire un pochettino e farmelo raccontare, mi sono reso conto che effettivamente è come se fosse un pesce che hai appena pescato con le mani, ti scappa da tutte le parti. E in particolare, ricongiungendo questo mio pensiero ai videogames, io per esempio sono un grande nostalgico dei couch games, che tra l'altro non si chiamavano couch games, si chiamavano giochi, videogiochi. Poi quando sono spariti gli hanno dato un nome e hanno ricominciato a riprodurli. Adesso escono titoli couch games. Io, lei non è una giocatrice, sto cercando tanti titoli per giocare con lei, è difficilissimo. Cioè una volta invece erano tutti già pensati, o almeno c'era proprio una fetta molto grande pensata per giocare assieme nello stesso posto, ed era la cosa più bella che potevi fare. Ma anche i single player li giocavi assieme, morivi a Tomb Raider, passavi il joypad e giocava l'altro. Allora, tornando a Zona Warp, tornando al giocare, tornando al fatto che una volta stare davanti ai videogame voleva dire passare del tempo divertendoti con un amico, cosa vuole fare Zona Warp col gioco? Cioè, il casino che volete creare, a che esigenze risponde? Di socializzazione, cioè di portare le persone insieme in un posto. A volte il videogioco è un po' anche una scusa, no? Lo era sicuramente la metà. Per creare situazioni di socializzazione, cioè noi portiamo qua le persone di persona, le facciamo conoscere, le portiamo in certi ambienti anche. Questo è anche un modo, no? Per mettere in contatto due culture che spesso non si parlano tantissimo, cioè quella della sinistra radicale che sta nei CSOA e quello del pubblico del videogioco. Quindi noi facciamo, ci sono delle persone che vengono a Zona Warp e non sono mai state in un centro sociale, non sanno come funziona un centro sociale. I collettivi dei centri sociali magari non sempre considerano il pubblico del videogioco, no? un pubblico alleato, un pubblico vicino. Su questo hai messo il dito tu prima, nel senso che effettivamente, cioè, il videogioco, la cosa che colpisce di Zona Warp è che parla del videogioco in modo politico, laddove il videogioco, almeno essendoci cresciuto dentro, non è che si sia mai veramente posto dei problemi. Cioè non è che un gamer viene sensibilizzato tramite videogame alla politica. Al massimo viene sensibilizzato al neonazismo, cioè mediamente la pipeline, no? È quella. Devi sparare un sacco. No, voglio dire, tu sei molto pessimista, devo dire. No, vai, Matteo, scardiniamo. No, allora, a parte che effettivamente la prima volta sono entrato in un centro sociale per venire a Zona Warp. E tutto quello che sapevo dei centri sociali. E quindi sociali, una cosa l'abbiamo portata a casa. Tutto quello che sapevo dei centri sociali è che alle elementari mi avevano detto che ai centri sociali ci vanno i ragazzi ricchi con i cani che mordono e si drogano. Non i cani, ma i ragazzi. Questo è tutto quello che sapevo dei centri sociali. Perché accanto alla mia scuola elementare per un periodo c'era un ex ufficio postale occupato e c'erano le mamme molto preoccupate di questa cosa, che noi andando a scuola elementare potessimo incontrare quei debosciati drogati, esatto, dei loro cani. Poi però ho visto Zona Warp e ci sono andato a Zona Warp. Infatti all'inizio avevo paura perché ho detto ma ci devo andare vestiti in maniera particolare, perché ho detto io ci vado in polo con i pantaloni da aziendalista, ho detto questi vai, ci hanno anche ragione se magari mi danno qualcosa. No, scherzo. Però è anche la scusa per tirar fuori la roba più casual, diciamo. Esatto. No, non che normalmente mi vesti in maniera seriosa, però e tra l'altro a me è piaciuto andare nei centri sociali, cioè sono davvero un bellissimo ambiente. Ora magari è perché li frequento ancora da poco, è la fase dell'innamoramento, però ma invece no, tu che sei, non sei organizzatore ma sei fan numero uno in Zona Warp, esatto. Ti ti nomino io fan numero uno seduta stante. E, cosa ti piace di Zona Warp? Cioè, cosa ti fa venire voglia di venire ogni volta o quasi? Ma allora, a me piaceva, innanzitutto io sono venuto la prima volta a Zona Warp un po' per lanciare una provocazione, nel senso che le cose di cui parlo io, ovvero il software libero, spesso non ci sono nell'ambiente videoludico. Io ho avuto un percorso strano con i computer, cioè che io in realtà avrei voluto fare il regista. Nello specifico magari regista di film d'azione, perché no, visto ormai ci siamo sconfessati. 007. E te dici, vabbè, forse è un lavoro un po' particolare. Infatti non c'è, diciamo, non è andato proprio benissimo. Magari non ci ho provato abbastanza, chi lo sa. E ho detto, vabbè, diamine, non ce l'ho fatta a fare il regista. Cos'altro ho fatto in tutta la mia vita? Ma io stavo sempre ai computer, proverò a fare il programmatore. Quindi c'è, cioè, la prima cosa, fai la seconda, no? La terza opzione era lo scrittore, quindi come vedi non ho mai voluto fare un lavoro vero, no? Ci assomigliamo pure troppo. Io mi piace scrivere, sto sempre al computer, cosa faccio? Il copywriter. Vabbè. E ho iniziato a fare il programmatore, e facendo il programmatore mi sono reso conto che facendo i programmi te hai un sacco di potere su chi usa quei programmi. E ho detto, boia, però se non posso fare un lavoro che mi piace, almeno vorrei fare un lavoro che mi fa stare bene, cioè vorrei avere una deontologia professionale, vorrei non essere un vassallo della grande azienda e fa quello che gli dicono. E sì, magari fa anche un sacco di soldi, perché in realtà fare il programmatore è un ambito molto facile per fare soldi con anche un buon livello di ingresso, perché ci sono tanti ambiti della programmazione che non sono particolarmente elitari, c'è tanto lavoro, anzi più un programmatore è scadente più genera lavoro per altri programmatori in realtà, quindi l'India come funziona? È un buonissimo settore per iniziare a lavorare e per avere indipendenza economica, però anche brutto non avere una deontologia professionale, perché poi alla fine tutti noi, cioè, ci abbiamo, almeno io penso, un vuoto dentro e dici, ma perché vivo? Cioè, se io devo mettere soldi e basta, e poi perdo empatia e non provo più sentimenti positivi, che senso ha? E mi sono avvicinato a questa cosa che è il software libero, che dovrebbe essere la deontologia professionale degli informatici, che dice che, dato che te programmatore eserciti potere facendo il programma, attraverso la pubblicazione di come si fanno i programmi, te restituisci questo potere. E quindi i programmi non sono soltanto una cosa unidirezionale che tu ricevi e puoi usare, ma puoi vedere come sono fatti, li puoi modificare e li puoi ricondividere anche vendendoli. E quindi praticamente distruggendo un po'. Che è anche un po', come dire, sono le basi su cui si poggia l'informatica. Se i primi developer non avessero pensato, sì, così, viverebbero un mondo. Se noi andiamo a vedere le prime comunità degli anni 70 e 60 di ricercatori, per carità, spesso collegati all'ambito militare, cioè l'informatica comunque nasce in ambito militare. I soldi dovevano arrivare da qualche parte. Sì, il bello è che l'informatica nasce più o meno da una cosa come i centri sociali, perché se ci pensi, te, l'informatica ce l'hai nelle università, negli anni 60-70, forse un pochino 50, in cui le grandi aziende facevano i computer, li donavano all'università perché non sapevano ancora cosa farci. Gli studenti dicevano, belli questi computer, però poi gli studenti finivano per non laurearsi e passare tutto il tempo ai computer, quindi poi in realtà non c'erano ancora i video games. Non erano, come dire, persone formalizzate, era molto autogestita la cosa. E questa cosa poi si è persa quando poi le grandi aziende hanno capito cosa fare dei computer. Però il movimento del software libero è rimasto, e tra l'altro ha fatto delle cose incredibili, perché noi usiamo tanto software libero anche senza saperlo. Uno degli esempi forse più eclatanti è ad esempio la distribuzione di GNU Linux Ubuntu, che certo ti dà un intero sistema operativo, certo, programmi per fare qualunque cosa, che te puoi vedere come sono fatti, puoi condividerli e puoi modificare. Certo. Pensa che bellezza se questa cosa fosse nei videogiochi. Sì. Cioè, allora, vabbè, lì, come dire, a me spiazzi, perché io ho anche provato Linux, insomma, un po' su queste cose ci ho messo il naso, ed effettivamente il potere del software è in mano ai programmatori, che è comunque il linguaggio che devi studiare e lo devi sapere usare, quindi da un certo punto di vista è una scelta anche forte stare dietro al software libero, perché è una scelta che ti chiede di imparare molto a fronte del... ed è il vecchio adagio tra... Guarda questo bell'Apple, quei tre opzioni e ti funziona tutto a meraviglia. Cioè, nel senso, è un po' sempre quella scelta della strada più lunga e più ripida. Però, ma ti lancio una provocazione. Vai, no, devi. Anziché avere l'Apple, che se tu avessi il tuo gruppo di amici, sì, che il programmatore lo sa fare, sì, come il tuo gruppo di amici che magari sa cucinare bene, sì, magari te non tanto, e tu chiedi supporto a loro piuttosto che a una mega azienda. Ah no, certo. Cioè, non è che tutti dobbiamo saper programmare, e questa cosa di dire tutti devono saper programmare è un impoverimento, beh, culturale. La cosa figa di quando avevo Linux è che io inciampavo su quasi qualsiasi cosa, però la quantità di forum e di supporto online io l'ho trovata impressionante. Cioè, c'è la risposta a quasi ogni problema che può venire fuori su Linux. Poi magari ne incontri altri 10 dopo. Però vabbè, nel senso, lì devi avere anche un certo tipo. Cioè, a me per un certo periodo stimolava, perché io poi se mi trovo di fronte a una sfida devo andare a quella succedere. Cioè, non è diverso, sì, da un videogame. Cioè, nel senso, da quel punto di vista è molto divertente. Non credo comunque sia fatta apposta, però. No, però è anche vero che è un percorso di conoscenza, sì, secondo me. Cioè, da quel punto di vista è affascinante, perché io credo che Linux sia una cosa che in qualche maniera è passata un po' sotto traccia rispetto a una decina d'anni fa, in cui, per dire, io lavoro all'università e c'era molto interesse per il software libero. Di recente si parla tanto di intelligenza artificiale e la mia università, tra le altre, rincorre quel sogno lì, però curiosamente non sento parlare del fatto che se ne vogliono fare una propria, che se tu ci pensi è assurdo. Quindi vai ancora a chiedere una mano agli americani, e quindi ci metti in mezzo anche l'economia, la politica, e anche un po' una dipendenza che poi a cascata riverbera su un sacco di altri problemi del mondo, assurdamente, però è così. Io, un amico che vive in America, mi ha tirato una pippa lunghissima, avendo ragione, dicendo che in Europa non c'è un data center che competa con la Cina e con l'America. Dici, quindi dipendi da loro, perché dagli altri non dipenderai mai, perché hai deciso di no. E quindi, come dire, il software libero in questo si va a infilare, perché almeno le idee le tiri fuori tu, cioè lo stai facendo tu, è tuo, lo condividi con chi vuoi, lo condividi. A tal proposito, tornando a Zona Warpa, come la tua esperienza col software libero ha trovato un eco e una, come dire, una interscambiabilità, un scambio con... A parte, sono stati, cioè, tutti carini con me, devo essere sincero, cioè, dagli organizzatori a quelle persone che hanno avuto il dispiacere o il piacere di sentirmi, sono stati sempre carini, è sempre stato interessante sia poter parlare di queste cose che ascoltare gli altri interventi. Cioè, la cosa proprio bella di Zona Warp è che io sono andato lì spesso anche per sentire gli interventi degli altri, e mi sono sempre piaciuti, li ho sempre trovati interessanti. Di recente vengo da una tappa di Zona Warp in cui c'è stato un bellissimo intervento di mi sembra Lorena Rao, esatto, su proprio la narrazione degli Stati Uniti attraverso i videogiochi, cioè come appaiono i videogiochi, certo, come appaiono gli Stati Uniti nei videogiochi, fatto da una storica, e te vedi che dov'è una manifestazione di videogiochi con questo livello di interdisciplinarità, tante discipline insieme, no? Perché anche ti dicevo, questo discorso di dobbiamo sapere tutti programmare in realtà è una perdita di ricchezza, non è un'acquisizione alla conoscenza. Cioè, dobbiamo poter avere la capacità di imparare a programmare se lo vogliamo. Bello. Ma non dobbiamo dire tutti dobbiamo essere uguali e pensare in questo modo. Certo. Anzi, dovremmo unire i programmatori con gli storici, dovremmo unire i programmatori con i matematici. Ma infatti una cosa che mi affascina, per esempio, dei programmi, io ho sfogliato un po' anche i programmi vecchi, insomma, quello di questa edizione, il fatto che Zona Warpa finalmente si permette di parlare di cose che, secondo me, scusami l'anglismo, strecciano un po' la fantasia. Cioè, a me una cosa che mi ha colpito moltissimo di alcuni passaggi dei programmi di Zona Warp è il fatto che si può parlare di discriminazione dei videogame, che è una roba tosta, perché è evidente che i videogame sono discriminatori. Voglio dire, quasi sempre interpreti un personaggio che è bello, forte, maschio, più delle volte. Adesso vabbè, c'è la wave dei personaggi femminili, ma voglio dire, anche i personaggi femminili sono tutte bellissime e implacabili, quindi già quello ed è la superficie massima, no? Però se pensiamo anche alle disabilità, nel senso, quanti videogiochi puoi giocare con le disabilità? Quindi viene anche difficile proporre, cioè, e quindi come le superiamo le discriminazioni in un ambito in cui non si è mai posto il problema? Cioè, allora, quello, appunto, ci sono due livelli. Intanto, videogiochi più accessibili. Videogiochi più accessibili è un percorso molto lungo, che tra l'altro, devo dire, quello stanno facendo le grandi aziende, perché uno dei videogiochi piace, The Last of Us Parte 2 è un gioco molto accessibile, cioè un sacco di opzioni di accessibilità. Persino Ubisoft, con tanti difetti che c'ha, sono anni che lavora all'accessibilità dei suoi giochi. Microsoft storicamente c'ha anche dei controller appositamente pensati per lavorare con tutta una serie di dispositivi per l'accessibilità. Wow. Quindi se vuoi controllare il pulsante A soffiando, c'è il controller in cui tu attacchi il tuo dispositivo a soffio al pulsante A ed è molto facile, c'è proprio il jack da pulsante, del pulsante A, tu ce l'attacchi ed è appunto l'adaptive controller di Xbox. Cioè, quindi le grandi aziende lo stanno facendo. Perché lo fanno le grandi aziende? Perché francamente sono le uniche che hanno dei budget, certo, capaci di lavorare a quel livello. Quanto lo paghi un aggeggio del genere? No, e più che altro il problema è che poi ci sono tutti i dispositivi da collegare a lui. Cioè lui sostanzialmente è... credo venga comunque sotto i $100. Okay. Però il problema è che poi ogni tasto, potenzialmente ogni tasto può diventare attaccare un dispositivo separato. Mizzica. E quindi può essere molto costoso, però anche costoso sviluppare cose del genere. Cioè è costoso, certo, sviluppare un videogioco che abbia tutte le opzioni tutte le opzioni di contrasto. Alcune cose sono molto semplici, cioè se vuoi sviluppare il filtonismo sono daltonico. Sì, però li scarichi, nel senso Unity ce l'ha, quindi okay, scarichi, li metti, sì, poi devi saperli usare, cioè non è che proprio, però nel senso, però esiste il pacchetto. Ah, ecco, tu per esempio che sei daltonico, questo è interessante, perché il daltonismo, vabbè, cioè è un difetto, ma non so se potrei, se si lievemente, devo dire, sono daltonico. Alcuni colori hai problemi a giocare, per dire, a esatto. Ecco, ora vabbè, non ci possono vedere. Vabbè, ma te indossa una camicia. Sono indeciso se questo colore è blu o viola. Vabbè, comunque per esempio in antica Grecia non avrebbero saputo se era blu o verde, quindi voilà, un discorso culturale in fondo. No, però è vero, perché alla fine i videogame, cioè, sono 95% vedere, sì. E quindi nel senso, tu essendo daltonico hai visto un videogioco diverso dal mio, tipo Red Dead Redemption, cioè l'hai visto diverso da me, oppure hai usato i filtri per il daltonico? No, Red Dead Redemption, allora io in realtà quasi non uso quasi mai i filtri per daltonici, perché boh, si vede, tipo nel mio caso di daltonismo è abbastanza leggero, o non sono pensati bene, o sono pensati, okay, perché poi il daltonismo, ora, ci hai provato? Ci ho provato, mi ricordo ci provai in Battlefield Bad Company 2, mi ricordo di averci provato lì, però non, ma sono molto migliorati, non era granché. In Worms Armageddon c'è un filtro che non so se sia per il daltonismo, però ti rende i colori delle squadre, delle barre delle squadre, dei, okay, nomi dei vermi più scuri, e quello mi aiuta. Ah, vabbè, anche più perché forse, ma non so, è difficile anche per quelli che vedono normale, tutto così. Però tutte queste opzioni sono molto importanti e purtroppo un po' si possono fare anche nel mercato piccolo, però in realtà la spinta è che siano le grandi aziende che hanno i soldi, certo, da spendere. E poi c'è un discorso di rappresentazione, poi il discorso di rappresentazione, volendo, è molto più generale, cioè nel senso, quanti film abbiamo visto in cui ci sono personaggi con disabilità che semplicemente interpretano personaggi? Cioè non esiste il concetto di avere un personaggio con disabilità che un attore con disabilità, un'attrice, un attore, una persona non binaria che reciti un personaggio con disabilità, ma semplicemente perché quella persona è disabile. Cioè deve essere un tema centrale nella costruzione del personaggio. È difficile vedere una commedia romantica da 100 milioni di dollari, purtroppo da 50 milioni di dollari, 80 milioni di dollari, con l'attrice principale a cui manca un braccio dalla nascita. E che semplicemente una persona a cui manca un braccio dalla nascita, perché le attrici a cui manca un braccio dalla nascita non possono fare attrici? No, e questo è anche un discorso di lavoro, tra l'altro. Cioè, per esempio, tra l'altro, adesso sta uscendo fuori una roba che, appunto, nel mondo della pallacanestro lascia quantomeno basiti. Perché non so se voi sapete come funziona il basket americano, ma i giocatori escono dal college e le grandi squadre li selezionano. Quest'anno si è reso eleggibile, perché funziona così: tu esci dal college o decidi di interrompere la tua carriera universitaria per provare a essere scelto alla squadra NBA, un giocatore senza un braccio, un giocatore di basket senza un braccio, che effettivamente da un lato, cavolo, io sono appassionato di basket, il basket è un gioco principalmente si gioca con gli arti, quelli superiori sono abbastanza importanti, però è vero che sto ragazzo gioca nel college, dove comunque non è che non giocano il basket vero, senza un braccio. E lui si sta candidando per l'NBA. Ed è una roba che ti ribalta completamente tutto. Però secondo me non bisogna neanche concentrarci su questi casi eccezionali. Sì, era... Ho capito, nella vita di tutti. Il fatto è che una persona senza un braccio si innamora. No, e poi raccontare la storia del suo innamoramento. Però, viene difficile però dal punto di vista narrativo. Cioè, capisco quello che cioè dici. Cioè, le persone sono senza un braccio senza un motivo. Cioè, nel senso, noi sì, esatto. Capito? Cioè, non c'è un motivo. Non c'è un super origini okay, del mio capito? Non avere però un braccio. Scusi, ma non so se capisco come vorresti quel film. Ad esempio, hai visto il film Luca? Sì. C'è un personaggio senza un braccio. Sì. Quello è uno dei casi che ti piace o che sì, non quello, ti piace? Sì, quello devo dire di quel film. Cioè, che non lo ricordo. Quello del film lo trovo molto divertente come viene fatto quel fatto che semplicemente è senza un braccio. Che mi ricordo, io lo vidi con la mia ragazza e lei mi disse: ah, mi piace che non hanno messo sì. Che tipo i bracci le aveva mangiato. Sì, lei è nato senza un braccio. È nato così. Senza un braccio e viene sbagliato in quella maniera. Quindi però, quello ti piace. Quello mi è piaciuto okay. Come viene costruito. Però dal punto di vista, quando si parla di cinema, c'è anche un discorso di labor che a me interessa. Cioè, che devono esistere delle carriere che permettono alle persone con disabilità di fare dei percorsi, delle carriere, anche se hanno delle disabilità, in maniera che non siano però tutte le loro carriere costruite unicamente sul mondo della disabilità. Se no si arriva al ridicolo di quando ci fu una delle grandi tragedie nel mondo della diversità del cinema statunitense è stata la fine del cinema western. Okay. Perché è vero che il cinema western e gli indiani facevano sempre gli stronzi che devono tutti sterminati, però almeno c'era lavoro per gli attori indiani. Quando gli indiani, come si dice noi, nativi americani, si diceva, va bene. All'epoca si diceva indiani, quando c'era John Wayne. Però gli attori nativi americani hanno perso in gran parte occasioni di lavoro dopo la fine del cinema western, perché non c'era l'idea che un attore che gli fai fare l'indiano, esatto. Se non gli fai fare l'indiano, scusami, ma perché deve esserci un nativo americano? E quindi gli conveniva fare il cattivo dei film, e quindi gli conveniva quasi era meglio, cioè, se scegli cioè, era meglio quando almeno c'era lavoro, prendevano per fare il cattivo, però c'era il lavoro per noi nativi. Però l'alternativa è perché non hai voluto scrivere grandi storie sui nativi americani. Ma perché non hai voluto fare raccontare, no? Cioè, e così nel videogioco, cioè il motivo per cui il videogioco ha un certo tipo di super rappresentazione in cui la disabilità è poco presente, e anche perché in qualche maniera si va a conformarci a una certa idea di potenza, di norma, di corpi conformi, in cui il corpo con disabilità non è incluso, non è pensabile. Insomma, è uscito di recente un videogioco che si chiama Tuati, che parla di disabilità, non benissimo, però insomma neanche malissimo. Se non altro ne parla. Ed il spunto del gioco è che il personaggio principale è nato con le braccia a posa a T. Ah, ok. Non può spostare le braccia da questa posizione a T. Ok. È nato così, quindi fai tutte le cose in questa maniera. Allora, okay. Non è un gioco perfetto in come parla di disabilità, però c'ha almeno alcuni elementi interessanti. È molto incentrato su quel tema, eh? Cioè quello è un gioco che c'ha la sigla di partenza che canta che tu sei della forma perfetta, quindi che proprio vuole affermare che tutte certo. Le persone non la sì, è politicamente non è la direzione, no, di un esatto. Protagonista qualunque, no, diciamo. Non è la posizione, è un gioco su quello, appunto non ne parla neanche benissimo. Curiosamente non c'ha quasi opzioni di accessibilità. È quasi privo di opzioni di accessibilità. Così. Però quindi a quel punto di vista si può fare ancora moltissimo. Allora ragazzi, visto che sono le 5 e quindi in realtà alla fine ce la siamo mangiata questa ora, ma non ne avevo dubbi, io vi farò una domanda finale mentre carico la sigla di chiusura, che è una domanda veramente da radiofonici, anche una domanda stupida se volete, ma ve la faccio lo stesso. Perché siete la cosa bella di essere in un posto come questo è di poter avere risposte non banali su cose che hanno sempre la stessa risposta, ok? E così però vi do tempo di prepararvi. Cioè in realtà vorrei che ciascuno di voi mi consigliasse un gioco, però un gioco dai, cioè un ma così nel senso fosse anche una roba che hai giocato 15 anni fa, però un titolo che è quel tipo di titolo che ti fa dire, che ti fa avere ancora speranza, ecco, mettiamola così. Ah, niente. Uno di Matteo è andato. Matteo Vini si è reso da per partenza. No, un gioco che tu dici, vabbè, stiamo parlando sempre di videogame, quindi non sto chiedendo forse la rivoluzione, però un gioco che mi ha aperto la mente, via, mettiamola così. Parto io, dai. Allora, Baro, consiglio il mio videogioco preferito, faccio Baro così che no, Bari, nel senso che pensavo fosse il titolo. No, Baro nel senso che imbroglio, perché poi il mio preferito che si chiama Their Angelical Understanding, la loro comprensione angelica, di Porpentine, che è un videogioco testuale sviluppato in Twine, che è l'oggetto del mio laboratorio. Ah no, è il tuo laboratorio, tu invece farai il software libero. Io parlo di videogiochi di software libero, okay. Che è sostanzialmente il racconto in chiave fantasy dell'elaborazione dello stupro subito dall'autrice. Beh. Quindi c'è questa ragazza che subisce uno stupro da un angelo, cioè viene toccata da un angelo, si dice nella storia, quindi da qualcuno che è considerato insospettabile, che tutti dicono un angelo, però lei è stata toccata da quest'angelo, lei si rintana in un monastero, cambia volto e poi torna nel mondo fuori dal monastero con l'obiettivo di trovare quest'angelo e vendicarsi. Questa è la storia. Che senso cambia volto? Cambia volto, c'è la scena in cui scegli l'ampolla del volto da metterti in faccia. Inquietante. C'è tutta una sovrapposizione con la storia della transizione di Porpentine. Per dare ulteriore tempo a Matteo di pensare, se non ha ancora la risposta. Non li dovevo far parlare per prima, adesso non so più. Io per esempio questo tuo racconto mi ha fatto ricordare di un gioco che si chiama Death Dragon Cancer. Sì. Che uscì. Ci ho pianto tutte le mie lacrime. Voilà. Io litigai con una persona perché quella persona mi disse che un videogioco non poteva parlare di certi argomenti. Era il 2013, non lo dimenticherò mai più, perché invece è stato il momento in cui ho pensato: ma forse il videogioco finalmente è pronto per parlare di certi argomenti invece, perché fino ad allora abbiamo saltato, abbiamo raccolto monetine, abbiamo sparato la gente, e invece lì c'era un tizio che cercava di rimettere insieme i propri ricordi dopo che comunque il figlio gli era mancato di cancro. Ed era una... Io non l'ho finito. Ah no? No, non ho avuto la forza, onestamente. Io pianto tutto il gioco. Esatto. Solo pianto. Però ero molto curioso di giochi che potessero raccontare storie in maniere diverse. In stesso periodo avevo giocato anche quello, mai finito, a Kentucky Road Zero, per esempio. Cioè, è quella l'idea, vedi, cioè, per darti delle... Cioè, l'avevi iniziato, perché all'epoca c'è tipo il primo episodio. Sì, no, era... L'ultimo sì, infatti, vabbè. Ho giocato il primo. Forse il secondo c'era già fuori, però è il 2014. Sì. Vai. No, allora, io, cioè, devo essere abbastanza sincero che in realtà a me prendere le monetine e sparare alla gente piace abbastanza. Ma piace a tutti, ma questa cosa essere... qui, cioè, questa cosa qui non deve... No, cioè, in realtà... Però vedi, io voglio fare una... Così prendi ancora tempo, voglio fare una distinzione tra questa cosa. Cioè, è bello sparare alla gente se quello sparare alla gente non ti chiude semplicemente in casa da solo con te stesso. Perché secondo me quella è stata la grande... Io ho sparato a tanti miei amici. infatti... O fai gol ai tuoi amici, sì. O che ne so. No, vabbè, allora devo ammettere, non ho la conoscenza vasta di Matteo di titoli così. No, non mi piace usare la parola impegnata, però forse più discorsivi, cioè più di ampio respiro. Tendo in realtà, soprattutto in questo periodo della mia vita, a preferire esperienze più concentrate, più forse meccaniche, se vuoi, ma non meccaniche senza anima, meccaniche magari attraverso la meccanica rifletti, perché faccio una piccola parentesi e rispondo. E uno dei miei giochi preferiti a cui sto rigiocando adesso è Pharaon. Ok. Che è un gioco che in realtà involontariamente, per un difetto di progettazione, c'ha una regola che fa piuttosto ridere. Cioè, quando te nel videogioco devi creare delle città nell'antico Egitto, e quando te costruisci un edificio esce un signore del centro dell'impiego che va a cercare fisicamente la casa più vicina per assumere la gente. Ma questo signore, se cammina per un po' di tempo e non trova una casa, torna indietro. Ok. Questo vuol dire che se te fai le case troppo distanti, lui non trova occupanti. Ok, sì. Però se te fai i settori industriali troppo vicini alle case dei ricchi, i ricchi non vogliono più starci. Certo. E quindi automaticamente il gioco involontariamente ti invita a fare dei quartieri dei poveri per la roba industriale. Siamo già. E fa molto ridere questa cosa. Secondo me non è involontario, Secondo me questa è ancora eredità di come viene simulata la città a partire da Sin City. Sì. Allora, cioè, io credo che sia involontario, perché il signore del centro dell'impiego c'ha pure un'altra regola. Cioè, che quando trova un incrocio, lui gira a caso. Quindi potrebbe anche tornare indietro, quindi mi sembra più una cosa di stupidità ingenua. Ma ci sono dei motivi per cui, a volte stupidi, ma ci sono dei motivi per cui le città vengono simulate in un certo modo. Secondo me effettivamente c'è un'idea di come, cioè dietro le simulazioni delle città, c'è un'idea di come funzionano le città. Però nel gioco dopo non c'era più il signore del centro dell'impiego. E te potevi usare. L'hanno licenziato perché si perdeva. E quando facevi l'edificio, automaticamente lui andava a prendere da tutte le abitazioni. Però, per esempio, è così che funzionano sì, tanti giochi così, del genere. Vabbè, sì, certo. Magari ti vuole anche dire quanto può essere, quanto una banalità possa creare un'enorme discriminazione. Ma sono meccaniche che lavorano. Io a lezione faccio sempre l'esempio, non so se abbiamo avuto, faccio lezione, faccio sempre l'esempio di come funziona il crimine in Sim City. Perché dico, in Sim City il crimine funziona così: tu fai un quartiere, sì, questo quartiere sviluppa crimine, perché sì, il fatto che ci sia popolazione sviluppa crimine, tu sì, ci metti la caserma della polizia e il crimine diminuisce. Certo. E così funziona il crimine in Sim City. Ora prendiamo gli studi sul crimine a partire dagli anni 70, e secondo gli studi sul crimine a partire dagli anni 70, se aumenta la presenza della polizia il crimine aumenta, non diminuisce. Faraon forse è un pochino più progressista. Beh, lì dipende anche se tu che sviluppi il gioco accogli le idee. Però il discorso non è quell'idea, cioè quello è come funziona realmente la criminalità. La criminalità aumenta con l'aumentare della polizia. Esatto. Però nel videogioco diminuisce. No. Perché? Perché c'è un'idea dietro, cioè non è che un errore, c'è un'idea specifica di come funziona la criminalità. Che è, perché è anche volendo intuitiva, cioè se tu vai a una persona e gli chiedi, ma se io metto più polizia per strada, che mi aumenta o diminuisce? Diminuisce. Non importa se esistono solo studi che dicono il contrario. Si chiama campagna elettorale della destra. No, vabbè. Ti dico questa cosa su Faron e poi dico il titolo. Ti è venuto in mente, veramente. Sì. In Faron è un pochino diverso ed è buffa anche questa cosa. Forse tra virgolette più realiste, nel senso, se te hai tanta disoccupazione il crimine arriva perché la gente non sa che lavoro fare, quindi non mangia e ti viene a rubare. In Faron è un po' meglio, almeno faccio un collegamento con delle cause sociali, però la polizia li frusta in Faron. Comunque, per tornare invece all'America, l'antico Egitto. Per tornare al gioco, c'è un'avventura grafica che mi colpì parecchio, che si chiama I Must Scream and I Have No Mouth. Che è un po' un classicone forse. E mi ricollego al suo discorso dello stupro, in cui tra l'altro c'è pure, credo, la prima scena di stupro, e forse una che ho visto nei videogiochi. Voilà. E non è assolutamente una scena, cioè non è esplicita, però te capisci che questo personaggio è stato stuprato. E la sinossi è che l'umanità è morta, è governato da un super computer che detesta l'umanità perché è frustrato, perché è solo CPU ma non arti, non può fare niente, e tiene vivi 4-5 personaggi, sono i personaggi dell'avventura grafica, per torturarli facendoli rivivere il loro passato. E ci sono vari peccatori, tra cui un SS, un cannibale e un lussurioso, e te vivi il loro passato ricostruito da questa intelligenza artificiale. È un gioco abbastanza particolare, non perfetto negli enigmi, forse un po' pedante per alcune cose, ma molto d'effetto. A me piace. Voilà. Questo è esattamente il tipo di idee e di stimoli, perché effettivamente sono due titoli molto interessanti che andrò a guardare su Steam, naturalmente, da bravo drogato. C'è anche su GOG comunque. Dell'Angelica Understanding è gratis. Voilà, ancora meglio. E no, scherzi a parte, vi ringrazio perché alla fine avete parlato un'ora e un quarto con tutto che sembrava impossibile. Invece sapevo benissimo che ci sono tante idee in questo evento che sta avendo luogo alle nostre spalle e a cui vi restituisco. Grazie Matteo, grazie Matteo, Matteo Lupetti, Matteo Vini, e buon proseguimento. E noi torneremo attorno alle 6, forse riusciamo a sequestrare Beatrice, a cui farò un altro milione di domande. Se tu vorrai stare con noi mi farò piacere. Ciao ragazzi. Arrivederci su Radio Warpa.